Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, l'Adico si espande, qualche mese fa insomma è stato rinnovato il sito associazionedifesaconsumatori.it, state potenziando i servizi, gli sportelli online, tra questi sportelli ce n'è uno molto importante che ci porta anche a toccare il tema della cronaca, sportello che si chiama Alcol e Patente. Di cosa si tratta? Sì, anticipo Mirko che come hai detto te, dopo il sito abbiamo attivato anche un primo sportello per gli sfratti e condominio, adesso stiamo attivando il secondo servizio molto importante, Alcol e Patente, perché ci rendiamo conto come le tematiche cui l'Adico deve dare delle risposte a seconda di quelle che sono le problematiche che le persone sempre più frequentemente rivolgono all'associazione, fanno sì che appunto prendiamo spunto da queste cose e cerchiamo anche noi di svilupparci e innovarci. E da ieri è attivo il nuovo sportello Alcol e Patente proprio per dare assistenza ai consumatori che nel caso si trovino condannati con una pena pecuniaria, come nel caso del signore che aveva 15.000 euro di sanzione per aver guidato in stato di ebbrezza la confisca dell'auto, sappiamo dargli degli indirizzi e dei consigli utili per risolvere la sua problematica. E cioè la multa ovviamente va pagata, ci sono che consigli si possono dare a uno che ha 15.000 euro di multa, ad esempio? Allora, innanzitutto la multa si può anche evitare di pagarla, perché dobbiamo sapere una cosa, e questo dobbiamo anche interpretare il codice della strada nuovo che è andato in vigore nel 2010. Allora, innanzitutto lo sportello ha sempre il significato importante di dissuadere il consumatore a non bere e mai mettersi al volante, perché sappiamo poi conseguenze e rischi non solo per il portafoglio, ma anche per le persone che possono essere con noi o possiamo incrociare. Premesso questo, ed è scontato, dobbiamo anche comprendere quella che è la reale difficoltà di una persona, come il caso di un socio che si è rivolto all'Adico, che per festeggiare un'assunzione a tempo indeterminato aveva bevuto un bicchierino in più e si è trovato appunto coinvolto in una vicenda così, una vicenda che oltre all'ammenda di 667 euro aveva avuto il ritiro dell'auto per 3 mesi e 63 giorni di reclusione, che potevi evitare pagando una pena pecuniaria di 15.000 euro. Cosa succede? Che per effetto di questo sportello qua e per effetto di quella che è l'interpretazione del nuovo codice della strada si è dato modo a poter convertire la reclusione e l'ammenda di 15.000 euro in lavori socialmente utili, cioè un lavoro, un giorno di lavoro socialmente utile per equivalente di 2 ore equivale a un giorno di detenzione per un importo di 250 euro. E quindi fino al raggiungimento appunto della quota dei 15.000 euro, insomma, è praticamente una pena alternativa, no? Come succede anche per le persone condannate per altri reati. Sì, è una pena alternativa che viene rivolta solamente a chi A. non ha mai avuto precedenti, B. in caso di fermo in un posto di blocco o in caso di controllo tu comunque non hai coinvolto incidenti, quindi non hai causato danni a terzi. Esaudite queste due condizioni tu puoi accedere a quelli che sono i lavori socialmente utili. Certamente una forma di alternativa a quella che è una sanzione giusta, per carità, perché inasprire una sanzione così è molto importante, perché sappiamo che bere vuol dire mettere a rischio le altre persone e chi sta con noi vicino, però significa anche sensibilizzare quella che è un pochino non solo l'opinione, le persone che magari rimangono coinvolti e non sanno di questa possibilità, ma anche dell'interessato che se non hai soldi potrebbe rischiare di trovarsi in galera. Che tipo di lavori si possono fare? Cioè, quali sono i lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità, che è un'altra definizione? Beh, normalmente per definizione i lavori di pubblica utilità dovrebbero essere inerenti un po' a quella che è la salvaguardia e la sicurezza delle persone e dei conducenti e delle persone e delle associazioni che prestano un certo tipo di servizio. In realtà poi scopriamo che ci sono 24 associazioni che hanno una convenzione con i tribunali che permettono a tutti di poter svolgere lavori di pubblica utilità. Pensiamo all'ANFAS, ma per esempio possiamo immaginare anche l'ultima, che è la Croce Rossa. Certamente è una penna alternativa e secondo noi anche molto più educativa, ma come detto non bisogna avere precedenti, non bisogna aver creato dei danni a terzi. Poi bisogna anche continuare a ricordare alle persone di non guidare e soprattutto ai neopatentati che in caso di superamento del tasso alcolico le pene sono previste al massimo, quindi non c'è tolleranza in questo senso. Ecco, a proposito di educazione, di tassi, insomma, si dice che poi siano i giovani quelli un po' più spericolati, ma i dati cosa dicono? Ecco, anche qui Mirko, in questo senso l'Adico con presentazione di questo sportello ho voluto fare un'analisi dei dati di quelli che sono state un po' le persone coinvolte in questi lavori socialmente utili e per esempio bisogna sfatare il mito che non sono che gli under 25 sono quelli meno coinvolti in queste vicende che, di cui stiamo parlando, ma paradossalmente sono quelli tra i 26 e i 30 anni che ci sono 40 casi, tra i 21 e 30 anni che ce ne sono 64 e dopo vabbè ci sono i casi limiti, quelli inferiori ai 20 anni o quelli oltre, però certamente gli uomini sono 225 contro le donne e paradossalmente dobbiamo dire che negli ultimi due anni l'attività sì è un'attività che comunque c'è stata una sensibile crescita, ma fondamentalmente parliamo di circa 280 persone. Questo per il territorio. Allora, per rivolgersi a questo sportello cosa bisogna fare? Ecco, le persone sanno che chiunque rimanga coinvolto in queste malaugurate vicende possono contattare l'Adico 041 53 49 637 e in qualsiasi giorno della settimana, anche sabato e domenica, possono lasciare un messaggio in segreteria o mandarci una mail o telefonare fino alle 19 di sera. Qualcuno risponderà sempre, ci sono sempre degli esperti pronti a disposizione per dare informazioni gratuite. Associazione Difesa Consumatori.it, allora, per ulteriori dettagli su questo nuovo sportello alcol e patente. Grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, appuntamento la settimana prossima. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.